Così il discepolo entra nel mondo spirituale. A questo punto acquista una nuova comprensione per ciò che è stato detto dai grandi maestri dell'umanità. I discorsi di Buddha e i Vangeli, per esempio, agiscono ora su di lui in un modo nuovo. Lo pervadono di una beatitudine di cui prima non aveva idea, perché il suono delle loro parole segue i movimenti e i ritmi che egli ha ormai formati in sé. Può ora sapere direttamente che uomini come il Buddha o come gli scrittori dei Vangeli non esprimono le proprie rivelazioni, bensì quelle che loro sono affluite dall'intima essenza delle cose. Richiamo ora l'attenzione sopra un fatto che forse si può intendere soltanto con l'aiuto di quanto finora è stato detto. Agli uomini che sono allo stadio attuale della civiltà riescono poco chiare le numerose ripetizioni che si trovano nei discorsi del Buddha. Per il discepolo dell'occultismo diventano qualcosa su cui riposa volentieri con il suo senso interiore, perché corrispondono a determinati movimenti ritmici nel corpo eterico. Abbandonandovisi con perfetta calma interiore, si determina anche un armonico accordo con quei movimenti. E poiché essi sono la riproduzione di determinati ritmi cosmici, che a loro volta rappresentano in certi punti delle ripetizioni e dei regolari ritorni in ritmi più antichi, il discepolo, ascoltando quel modo di parlare del Buddha, penetra nell'armonia dei segreti cosmici. La scienza dello spirito parla di quattro qualità che il discepolo deve acquisire nel cosiddetto cammino delle prove per ascendere a conoscenze superiori. La prima è la capacità di scindere nei pensieri il vero dalla parvenza, la verità dalla semplice opinione. La seconda qualità è la valutazione giusta del vero e del reale rispetto alla parvenza. La terza capacità consiste nell'esercizio, già citato nel capitolo precedente, delle sei qualità: controllo del pensiero, controllo delle azioni, perseveranza, tolleranza, fede ed imperturbabilità. La quarta è l'amore per la libertà interiore. La semplice comprensione intellettuale del contenuto di queste qualità non serve. Esse devono essere tanto integrate nell'anima da costituire abitudini interiori. Prendiamo per esempio la prima qualità, il discernimento della realtà dalla parvenza. Ci si deve educare in modo da discernere naturalmente, di fronte ad ogni singola cosa che ci si presenta, ciò che non è essenziale da ciò che ha importanza. Per potersi così educare, occorre con completa calma e pazienza tornare sempre a sottoporre a questa prova le osservazioni fatte nel mondo esteriore. Alla fine lo sguardo si ferma in maniera naturale sul vero, mentre prima si contentava di ciò che non era essenziale. Tutto l'effimero non è che un simbolo. Questa verità diventa una convinzione naturale nell'anima, così pure lo devono divenire le altre delle quattro qualità suddette. Ora, il delicato corpo eterico del discepolo si trasforma in effetti sotto l'influenza di quelle quattro abitudini dell'anima. Con la prima, discernimento del vero dalla parvenza, viene creato il già descritto punto centrale nella testa e preparato quello nella laringe. Certo, per il loro reale sviluppo sono necessari gli esercizi di concentrazione di cui prima si è parlato. Essi danno l'impulso formatore e portano a maturazione le quattro abitudini. Preparato che sia il punto centrale nella regione della laringe, per mezzo della giusta valutazione del vero contro la parvenza del non essenziale, si ottiene la libera padronanza del corpo eterico, della quale abbiamo già parlato, e il suo rivestimento e limitazione con la pellicola reticolata. Elevandosi a tale valutazione, il discepolo arriva gradatamente a percepire fatti spirituali, Non deve però credere di essere chiamato a compiere soltanto azioni che, secondo ragione, possono sembrare importanti. L'azione più insignificante, il più piccolo gesto della mano, ha la sua importanza nella grande economia dell'universo. Importa soltanto avere coscienza di tale importanza. Non si tratta di svalutare le pratiche quotidiane della vita, ma di valutarle giustamente. Si è già parlato delle 6 virtù che costituiscono una terza qualità. Sono connesse con lo sviluppo del fiore di loto a 12 petali nella regione del cuore. Verso di esso, come è stato mostrato, si deve in effetti dirigere la corrente vitale del corpo eterico. La quarta qualità, il desiderio della liberazione, serve a far maturare l'organo eterico nelle vicinanze del cuore. Quando questa qualità diventa un'abitudine dell'anima, il discepolo si libera da tutto ciò che è in relazione soltanto con le capacità della sua natura personale. Cessa di considerare le cose dal suo particolare punto di vista. Spariscono i confini del suo angusto sé che lo convincono a quel punto di vista. I segreti del mondo spirituale trovano accesso alla sua interiorità. Questa è la liberazione, perché quei vincoli costringono l'uomo a considerare le cose e gli esseri in modo conforme alla sua personalità. Il discepolo deve diventare indipendente, liberandosi dal suo modo personale di considerare le cose.